Letture di Radio 24. Nel centenario della morte di Emilio Salgari, la rivista Rolling Stone celebra in chiave rock lo scrittore veronese e il suo personaggio più famoso, Sandokan. L'invenzione di un mito molto vicino alla vita dello stesso autore, che narra le avventure della rock star della Malesia, fatte di battaglie, nemici e amori, come se fosse una canzone rock. È il 1883 quando Emilio Salgari, allora principalmente giornalista, inizia a pubblicare sul quotidiano veronese Nuova Arena il racconto a puntate La tigre della Malesia, prima apparizione del suo leggendario pirata del Borneo, Sandokan. Spietato con i nemici inglesi, ma anche con i suoi uomini, chi sbaglia paga con la vita, Sandokan rivela però pure un cuore tenero. Appena vede Marianna, nipote di Lord Gyonk, capo della Compagnia delle Indie e dunque suo acerrimo nemico, se ne innamora perdutamente, ricambiato. La trama è tutta qui, e i due naturalmente finiranno per sposarsi. Il linguaggio è quello dei feuilleton dell'epoca, eppure c'è qualcosa nel racconto di Salgari che funziona ancora oggi. È il gusto pop, ipermoderno, addirittura postmoderno, del racconto, non a caso costruito a puntate. Sono canzoni folk, ballate, non composizioni per orchestra. Poi c'è l'immaginario di riferimento, esotico, ma soprattutto dannatamente rock and roll. Con Sandokan l'Italia conosce la sua prima rockstar, erotica, eroica, dal passato torbido e difficile, amato dai suoi, temuto dai nemici. Spettacolare, molto stiloso, desiderato dalle donne e in fondo ammirato anche da chi lo combatte. Un superuomo, anzi, di più. Un agnello di Dio che prende su di sé i peccati del mondo e ci redime tutti quanti con il suo sacrificio. Facendo una vita disagiata, passando dalla reggia del Borneo in cui era nato alla spelonca dei pirati che condivideva con i membri della sua band. Yanes, un bassista portoghese, Tremal Naik, un batterista indiano. La rockstar della Malesia, Salgari, l'ha inventata a Verona, Ivrea, Quornier, Genova, Torino, nel pieno della provincia italiana, lottando ogni giorno con editori taccagni e strappando con i denti i soldi necessari a mantenere la moglie malata di nervi e i quattro figli dai nomi esotici, Fatima, Nadir, Romero, Omar, millantando pure un autobiografismo impossibile. Le uniche sue esperienze di mare risalivano ai tempi della scuola, quando cercò di diventare capitano di marina, ma tutto ciò che ottenne furono 3 mesi di navigazione lungo le coste adriatiche. Per tutta la vita si fece chiamare capitano, pur non essendolo. Non prese mai il diploma, ma nel 1897 fu nominato dalla regina Cavaliere della Corona d'Italia, prova di un successo popolare che lo gratificò ancora in vita. Famoso, povero e impegnatissimo nella scrittura, anche con pseudonimi, Salgari finì per pubblicare 80 di romanzi. 11 con protagonisti Sandokan e gli altri pirati della Malesia, 6 ambientati alle Antille, quelli del Corsaro Nero, e 3 nel Far West. Lo spettacolo del Wild West di Buffalo Bill, visto dal vero a Verona durante il leggendario tour oltreoceano dell'aprile 1890, di cui Salgari scrisse una celebre, appassionata recensione sull'Adige, lo affascinò al punto di decidere di ambientare un miniciclo di storie nel Grande Ovest, che per un italiano di fine Ottocento, figlio di commercianti e marinaio fallito, era soprattutto un grande altrove, una terra del mito dove tutto può accadere e tutto finalmente accade. Che i Pelle Rossa vadano in giro adornati di piume colorate e che Elvis Presley si faccia strada a colpi d'anca nei sogni più nascosti di una nazione. Senza averne mai ascoltato una singola nota, Salgari aveva sentito arrivare il rock and roll prima di chiunque altro. Basti pensare al suo quasi perfetto contemporaneo francese Jules Verne, considerato anche lui un inventore della fantascienza moderna. Laddove Verne crede nella scienza e nella possibilità dell'uomo di creare e conoscere nuovi mondi, Salgari crede nel mito, punto. Sarà per questo che a me, quando vedevo David Bowie nei panni di Ziggy Stardust, veniva sempre in mente Sandokan. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Pietro Negri Scaglione, Emilio Salgari, era un pirata e un signore, dal numero di ottobre della rivista Rolling Stone. Letture di Radio 24. Innovazione, provocazione, sperimentazione erano alcune delle caratteristiche dei Crisma, gruppo formato da Maurizio Arcieri, già voce dei New Dada e cantante solista di successo, e la compagna Cristina Moser. Passando dalla dance al punk e poi all'elettronica, i Crisma hanno conosciuto, tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, un periodo di grande successo internazionale. A 35 anni dalla loro nascita, la Interno 4 Records pubblica ora un CD nel quale 16 artisti indipendenti rendono omaggio al loro repertorio. Nel libro allegato al CD, Maurizio e Cristina, intervistati da Gioiello Triolo, ripercorrono le varie tappe del loro percorso musicale, ricordando l'esperienza newyorkese, quando i Crisma vennero contattati per essere proposti sul mercato statunitense. Maurizio si stupisce ancora dell'accoglienza entusiastica che venne loro riservata. La cosa fantastica, e lì per lì anche un po' incredibile, fu che organizzarono un party in nostro onore. Gli americani sono così. Quando scoprono qualcosa che loro non sanno fare, ti chiamano, ti coccolano e poi ti convincono a farla per loro. Intendi musicalmente? Musicalmente e anche tecnologicamente. Per esempio, buona parte del loro interesse riguardava il Crismino, un sequencer che avevamo progettato e costruito e che portammo con noi, senza pensare che ci sarebbe stato sequestrato immediatamente appena sbarcati a New York. Era un prototipo pieno di fili di rame, pulsanti e schede elettroniche e destò un po' di sospetti nell'FBI che ce lo requisì. Ovviamente con molta gentilezza e cortesia, ma di fatto il Crismino non ci è mai più stato restituito. A New York dovevamo starci per 15 giorni e decidemmo di vivercela alla grande. Prendemmo un mega albergone di superlusso. Pensavamo, siamo in questa città favolosa, vorremmo mica andare alla pensione Mariuccia. Così affittammo un piano intero di questo albergo a Manhattan, prima di andare all'incontro con Machat. Al momento di firmare il contratto, scoprimo che la cifra era esagerata. Ci offrivano davvero troppi soldi. Stavamo attorno al $500,000. Ci eravamo anche un po' insospettiti. Però, fatti tutti i controlli di rigore alla Chemical Bank, capimmo che era tutto regolare. I soldi erano già sul nostro conto. In America è così, o almeno così era a quel tempo, alla firma del contratto. Senza sapere se le vendite andranno bene, si riscuote la cifra stabilita. Questo perché il peggio che può accadere è che tu vada in perdita, e le perdite, grazie alla gain tax, un'imposta applicata sui redditi di capitale, contribuiscono a garantire comunque un'entrata. Ovviamente prendemmo la palla al balzo e ci trasferimmo a New York. L'Atlantic, negli Stati Uniti, cominciò a pubblicare regolarmente dei nostri brani su alcuni 12 pollici che avevano molto riscontro nei club dei neri. Questa era anche la ragione per la quale i nostri dischi uscivano con delle copertine generiche, le classiche buste bianche col buco centrale. Quando chiesi ai dirigenti dell'etichetta se c'era qualche ragione legata alla nostra immagine, mi risposero proprio che il motivo era il colore della nostra pelle. Voi piacete agli Afro-Americans. Se si viene a sapere che siete bianchi ed europei, non funzionereste allo stesso modo. Anche perché eravamo tra i pochi bianchi ad avere accesso alle discoteche black. In fondo, eravate diventati dei veri e propri punti di riferimento nella produzione dei suoni. C'era molta gente che vi teneva in considerazione per le vostre capacità di innovazione e ricerca. Ai tempi in cui lavoravamo al Trident, avevamo sperimentato delle tecnologie nuove per capire fino a che punto ci si potesse spingere nell'equalizzazione. Prendevamo suoni anche da piccoli giocattoli elettronici e li inserivamo nel banco, aggiungendo delay e compressori. Poi, prima di procedere alla registrazione, per capire se il suono avesse retto anche sul prodotto finito e scongiurare effetti di distorsione, realizzavamo seduta stante degli acetati che provavamo su un normalissimo impianto stereo. Se funzionava, procedevamo. In caso contrario, provavamo altre soluzioni. Era un modo, forse un po' empirico, per capire fino a dove fosse possibile spingere col livello sonoro. Riuscivamo a fare questo perché grazie al nostro lavoro eravamo molto ben considerati nell'ambiente. Qualche anno prima, a Brixton, avevo anche collaborato a una registrazione dove, con un sintetizzatore Wasp, ero riuscito a emulare la voce di Haile Selassie. Mi ricordo che il fatto di essere continentali, di aver fatto dei servizi fotografici al Museo d'Arte Moderna di Berlino e aver lavorato con Vangelis, ci aveva messo in buona luce nell'ambiente. E non solo tra musicisti, direi. Ho letto che la Mattel ha comprato un vostro brevetto. Sì, per realizzare una batteria elettronica, che era un giocattolo tecnologicamente molto avanzato. Si basava sugli schemi elettronici del Crismino. L'avevano chiamata Synsonic Drums e si poteva suonare con le bacchette, su dei pad, oppure anche programmarla. Non ci posso credere, ce l'avevo anch'io. Ma la Synsonic Drums però non aveva un sequencer, era solo batteria. Sì, infatti, mentre il Crismino aveva anche un modulo per le note con un commutatore di ottave che fu una trovata di Chris. Dunque, siccome l'ultima novità in campo di strumenti elettronici era il Fairlight, che costava la bellezza di 35.000 sterline, all'incirca 130 milioni delle lire dell'epoca, ci venne in mente di provare a costruire da soli qualcosa. Il Crismino aveva solo bisogno di un paio di ottave in più. Così cominciai a chiedermi dove avrei potuto trovare un chip che permettesse di alzare o abbassare la tonalità dei vari tasti. Mi venne in mente che quelli usati nei frigoriferi erano probabilmente perfetti allo scopo, oltre che essere anche tra quelli meno costosi, perché sono progettati per attivare il processo di accensione e spegnimento del raffreddamento passando per tre livelli, meno 4, 0, più 4. A guardare quelli di oggi, erano semplici in modo disarmante. Con il saldatore l'abbiamo inserito nella scheda, dandogli indicazioni e touch sul suono da riprodurre. Andavamo per tentativi, lo stavamo costruendo, salda, dissalda, qui è quasi giusto, no, meglio così, fino a quando non abbiamo ottenuto quello che ci serviva. È stato fondamentale per il mio modo di comporre. Avevo in mente una tecnica ben precisa, basata sulle ripetizioni. Cercavo il modo per modificare la forma classica dei passaggi tra gli accordi, in battuta, e uscire dalla metrica sulla stessa nota. Abbiamo sempre curato molto i suoni. Spesso li creavamo con dei veri e propri algoritmi, ma non ci siamo mai tirati indietro neanche da esperimenti divertenti come estrapolare i suoni sintetici direttamente dai giocattoli elettronici. I giri di basso per l'album Cathode Mamma, per esempio, li ho composti su un telefono giocattolo della Marlin. Aveva una tastiera numerica classica a 9 tasti che forniva un'ottava con 2 semitoni, più lo 0 per le pause. Concettualmente era in linea perfetta con il nostro lavoro e lo abbiamo utilizzato come un qualsiasi altro strumento musicale. Esibirsi con la band oggi suppongo sia molto diverso dagli anni 70 quando avete iniziato. A quei tempi erano gli anni di piombo, era difficile imporsi qui in Italia. Infatti era un casino. A noi non andava di cantare di fabbriche e problemi sociali, ma a quei tempi, se non dimostravi impegno politico nelle canzoni, venivi immediatamente escluso da certi ambienti. Per questa ragione, dopo un episodio un po' sgradevole, decidemmo di lasciare l'Italia ed andarcene a Londra. Ti riferisci al famoso finger job? Fu un'esperienza piuttosto brutta. Noi avevamo un'iconografia punk, vestivamo spesso di nero, e gli autonomi, che non capivano l'estetica e nemmeno i nostri testi, ci prendevano per filo nazisti. Per il tour promozionale di Chinese, per fare una cosa scenografica, facevo saltare i bottoni della giacca con un coltellino greco e una sera, mentre suonavamo a Reggiolo, arrivarono in massa gli autoriduttori che si scagliarono contro di noi lanciando sassi e molotov con slogan inviperiti. Fu in quel momento che, provocatoriamente, decisi di usare il coltello per tagliarmi un dito e poi, in gesto di sfida, lo infilai in bocca a uno del pubblico. Lì per lì non sembrava grave, ma poi mi resi conto che la ferita era piuttosto profonda e prima di tornare a casa andai all'ospedale per farmi dare dei punti di sutura. L'indomani i giornali riportavano la notizia. E anche Luca Goldoni scrisse un pezzo sul Corriere della Sera dal titolo «Si canta meglio tagliandosi un dito». Sta di fatto che mi beccai una denuncia per autolesionismo e fummo costretti a cancellare più di 40 date del tour. Scappammo in Inghilterra, dove l'ambiente musicale ci somigliava di più e dove il nostro disco, Black Silk Stocking, era entrato in classifica. Ma secondo voi questi atteggiamenti degli autonomi nei vostri confronti potevano essere attribuiti al vostro passato, al fatto che Maurizio veniva dal pop, da un mondo di lustrini e televisione molto contestati in quel momento di riflusso ideologico? Di tutto, guarda. Si attaccavano a tutto. Pensa che arrivati a Londra, sono andata di corsa a tagliarmi i capelli perché a un certo punto ero stata insultata anche per l'acconciatura. Avevo i capelli lunghi, quindi ero considerata una donna oggetto. Un momento molto particolare. Andare in Inghilterra per noi fu la scelta più logica. In effetti, con la testa, non eravamo più in Italia da molto tempo. Anche adesso, a volte, preferirei non esserci. Avete ascoltato alcuni passaggi dall'intervista a Maurizio Arcieri e Cristina Moser dal libro più CD Cybernation, interno 4 Records, NDA Press, 96 pagine, €14,90.